50 domande su Gesù. Che cosa sono i Vangeli canonici e gli apocrifi? Le primitive comunità cristiane hanno riconosciuto come canonici quei Vangeli che trasmettevano autenticamente la tradizione apostolica ed erano considerati come ispirati da Dio. Fin dall'inizio se ne riconobbero quattro, e solo quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Così lo propose espressamente Sant'Ireneo di Lione alla fine del secolo II, e così lo ha confermato costantemente la Chiesa, proponendolo finalmente come dogma di fede nel definire il canone delle Sacre Scritture nel Concilio di Trento. La composizione di questi Vangeli affonda le sue radici in ciò che gli Apostoli videro e udirono vivendo con Gesù e nelle apparizioni che ebbero di Lui dopo la resurrezione dai morti. Gli Apostoli, compiendo il mandato del Signore, iniziarono subito a predicare la buona notizia, o Vangelo della salvezza, da Lui portata a tutti gli uomini, e si costituirono comunità di cristiani in Palestina e fuori di essa: Antiochia, diverse città dell'Asia Minore, Roma, eccetera. In queste comunità le tradizioni, la memoria di Gesù, gli inni di preghiera, le professioni di fede della primitiva catechesi andarono prendendo forma di racconti e di insegnamenti relativi a Gesù, sempre con la garanzia degli apostoli che erano stati testimoni. In un terzo momento queste tradizioni furono poste per iscritto, integrandole in una narrazione a modo di biografia del Signore. Così sorsero dal Vangelo l'annunzio della buona novella, i Vangeli così come li conosciamo noi, per uso delle comunità alle quali erano stati destinati. Il primo Vangelo ad apparire fu quello di Marco, o forse una edizione di Matteo in ebraico o aramaico, più breve dell'attuale. Gli altri tre imitarono questo genere letterario. In questo lavoro ogni evangelista scelse alcune cose tra le molte che si trasmettevano, ne sintetizzò altre e presentò il tutto avendo presente la condizione dei suoi lettori immediati: giudei, greci, abitanti di Roma, eccetera. Che i quattro godettero della garanzia apostolica si riflette nel fatto che furono ricevuti e trasmessi come scritti dagli stessi apostoli o da loro discepoli: il Vangelo di San Marco da San Pietro, quello di San Luca da San Paolo. I Vangeli apocrifi, invece, sono quelli che la Chiesa non ha accettato come provenienti dall'autentica tradizione apostolica, sebbene normalmente essi si presentano sotto il nome di qualche apostolo. Incominciarono a circolare molto presto, giacché li si cita già nella seconda metà del II secolo. Però non godevano della garanzia apostolica come i quattro riconosciuti, e inoltre molti di essi contenevano dottrine che non erano d'accordo con gli insegnamenti apostolici. Apocrifi inizialmente significò segreti, in quanto erano scritti che si dirigevano a un gruppo speciale di iniziati ed erano conservati in questo gruppo. Poi assunse il significato di inautentico o perfino eretico. Man mano che passò il tempo, il numero di questi apocrifi si accrebbe sia per dare dettagli della vita di Gesù, che non erano menzionati nei Vangeli canonici, come per esempio gli apocrifi dell'infanzia di Gesù, come per mettere sotto il nome di qualche apostolo insegnamenti divergenti da quelli comuni della Chiesa, per esempio il Vangelo di Tommaso. Origene di Alessandria scriveva: la Chiesa ha quattro Vangeli, gli eretici moltissimi. Dalle varie fonti da cui riceviamo informazioni su questo tipo di letteratura, opere dei primi padri o santi dottori della Chiesa che li studiarono, opere di devozione conservate nei secoli della pietà cristiana, scritti tramandati in frammenti di papiri recentemente rinvenuti per lo più in Egitto, il numero dei cosiddetti Vangeli apocrifi, finora conosciuti, supera di poco il numero di 50.